voglio Higuain in campo tutte e sette le partite che mancano. Quante ne mancano? Sette. Lo voglio in campo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Mi ha telefonato quello della Gazzetta, esattamente come altri 3-4 giornalisti, per chiedermi che vento tirava come entità. E io, come sempre faccio, con un accordo decennale con la stampa, dico: vi spiego gli aspetti tecnici, dando per scontato che quello che la mia decisione viene fatta ovviamente sulle carte sugli atti pubblici, per noi atti ufficiali, che sono il referto arbitrale e così via. Tieni presente che la funzione del giudice sportivo non è quella di vedere la televisione. Se anche ma io infatti ho fatto una domanda a te che ti scagiona. Ho detto, vuoi vedere che forse sono gli arbitri che quando si tratta... Su Bonucci, che ho sentito citare 20 volte nelle ultime ore, non c'è traccia nel referto arbitrale. Appunto. Senti un poco, non ti voglio mettere troppo poi su mi mostra. Ma quante giornate ha avuto stu Gonzalo, Higuain? Se può sapere, 4 o 2, non si è capito ancora. No, uno più tre. Ma scenderanno a 2, no? Perché? Ma al momento un avvocato si è fatto avanti del Napoli, insomma c'è stato un ricorso, niente ancora, non sai niente tu, ovviamente. Il ricorso non mi viene comunicato indirettamente. Vabbè, mi sembra chiaro che non ne usciremo tanto facilmente da questa storia, da questo scherzo telefonico di Radio Marte. Io trovo che il giudice Tosella abbia parlato in modo impeccabile, ma d'altra parte lui sottolinea come è sempre stato, per tacito accordo, disponibile nei confronti della stampa a spiegare gli aspetti tecnici delle sue decisioni. Buongiorno Pierluigi Pardo. Come va? Ho visto giorni migliori. Ma anche ieri sera ti sarei sentito a casa al Camp Nou. Partita tesa, dura, tratti selvaggia, dopo gara pieno di polemiche, accuse nei confronti del Barcellona, padrone bello d'Europa. Bello, però polemiche fatti loro, molto più rilassante. Partita densa, partita. Però ecco, insomma, oggi per dirti marca che giornale di Madrid, molto vicino al Real Madrid, ma sicuramente anche con tanti tifosi colchoneri e sicuramente nemico del Barcellona, titolava un Real Madrid da 10, migliore del Barcellona finché si è giocato 11 contro 11, ma senza insomma fare ingiustizia, vergogna, da lì dovremmo fuori partire. Questa è la mia idea, poi non fa quello che pare. La partita è stata densa di episodi. Da lì si potrebbe ripartire. Intanto ripartiamo da riprovare a collegarci, che magari sentiamo meglio. Io saluto e ringrazio l'avvocato Mattia Grassani, che curerà il ricorso del Napoli per la questione della squalifica di Higuain, ma anche di Sarri, Koulibaly e Mertens. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Possiamo parlare, no? Nessun problema. Noi non siamo tenuti ad avere alcun segreto. Qual è la sua posizione nei confronti del giudice Tosella? Guardi, io sono intervenuto per parlare eventualmente del ricorso del Napoli e della posizione di Higuain. Queste sono vicende molto delicate che attengono a sfere assolutamente personali e private, per cui preferisco non pronunciarmi sulla scelta di giudice sportivo Tosella di parlare in quella telefonata e in quei termini. Sì. Invece, in che termini parliamo del ricorso che presenterà? Parliamo nei termini di un comunicato ufficiale, quello appunto del giudice sportivo Tosel, le cui motivazioni non ci convincono, non ci hanno convinti, e a maggior ragione dopo aver chiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali, in particolar modo del referto arbitrale di Irrati. Per cui riteniamo che l'attribuzione a Higuain di un'ingiuria barra offesa che consisterebbe nella parola vergognoso e nell'aver assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro per avergli apposto le mani sul petto, siano comportamenti da derubricare e comunque da rivalutare da parte della Corte Sportiva di Appello, per cui 4 giornate ci sembrano assolutamente eccessive oltre che ingiuste e puntiamo ad una sensibile riduzione della squalifica. Sì, ho letto da qualche parte che Gerardi potrebbe essere chiamato a testimoniare in questo giudizio d'appello. Così. È un'evenienza assolutamente concreta perché l'organo di secondo grado ha chiarimenti, così come potrà sentire se si presenterà Higuain personalmente, può e normalmente lo fa, chiedere un supplemento di rapporto, direttamente contattare l'arbitro per meglio precisare alcuni passaggi del referto che ha già redatto. Perfetto, le chiedo un attimo di pazienza, è tornato Pardo. Traffico, torniamo sì. Subito e chiudiamo la discussione. Tutti convocati. Tutti convocati. Mattia Grassani, avvocato, principe del Foro Sportivo, è colui che curerà, come sapete, il ricorso del Napoli sul caso Higuain. Pierluigi Pardo è tornato, sì. Eccolo. Sì, sì, io ero stato dicendo anche prima, però voi non mi sentivate, quindi ci sono tornato. No, beh, l'avvocato fa chiaramente il suo lavoro, gli chiedo qual è secondo lui allora la squalifica congrua, quante giornate dovrebbe essere una squalifica congrua per quel tipo di fattispecie, anche alla luce dei precedenti. Io penso che questo tipo di fattispecie sia punita troppo, questo lo penso. Io penso che si possa arrivare al paradosso che magari un intervento che può costare l'incolumità a un giocatore può portare a 1 o 2 giornate di squalifica e invece questa può portarne molte di più, addirittura si era parlato nei giorni scorsi nel caso fosse stato riconosciuto una fattispecie di maggiore violenza di squalifiche da 8-10 giornate che non sono state prese in considerazione. Quindi gli chiedo qual è secondo lui la giustizia. Allora, partiamo col dire che io sono di parte perché ovviamente difendo le ragioni del Napoli e del signor Higuain, oltre che di Sarri. Però colgo e la ringrazio della domanda perché l'obiettività comunque non deve mai essere persa di vista e quello che hai detto lo condivido appieno. E cioè, qui stiamo parlando di un momento particolare di una partita con delle situazioni avvenute in un contesto temporale molto molto circoscritto. Mi riferisco al secondo cartellino, all'incontro Irrati Higuain e all'allontanamento di Higuain. Non mi riferisco ai fatti successivi perché non sono stati neanche presi in considerazione dal giudice sportivo. E per me, sulla base di questo tipo di ricostruzione, con appunto quella al netto della derubricazione di un comportamento che non è ingiurioso, perché Higuain non offende l'onore e la reputazione dell'arbitro, non lo insulta, ma dice vergognoso, e considerato che quel gesto a livello di appoggiare le mani sul petto non è un gesto di offesa ma è un gesto di difesa, perché è Irrati che va più velocemente verso Higuain che non il contrario, ritengo che una sanzione equilibrata possa essere 2 giornate e sarà la nostra richiesta, diciamo, principale, e in subordine è la riduzione da 4-3. Allora, mentre stava parlando l'avvocato Grassani sulla domanda di Pierluigi Pardo, mi ha raggiunto il Kofi Annan di Radio 24, che è Giuseppe Cruciani. Buonasera, salve avvocato. Buonasera. Inseriti nella discussione, ci sta spiegando l'avvocato Grassani che una sanzione congrua per quel tipo di atteggiamento potrebbe essere 2 giornate per Higuain. Non lo so, secondo me pesa di più al di là della questione della parola vergognoso. Oggettivamente in campo se ne sentono di peggio, già lo diciamo ieri, no? Cioè, sì. La parola vergognoso non mi sembra nemmeno da sanzione, peraltro. Cioè, non, è una parola che, ripeto, in un campo di calcio se ne sente di tutti i colori, dalle bestemmie in giù. Sì. Per cui sulla parola vergognoso non ho nulla da dire. Cioè, se uno esce dal campo e dice all'arbitro è vergognoso quello che è successo, certo, una cosa è che dice sei una vergogna, una cosa personale. Adesso non so se Grassani se sa se sul referto c'è lo scritto. Lo so perché il referto l'abbiamo ottenuto ieri sera. E cosa c'è scritto? Irrati dice, si rivolgeva a me con la seguente espressione, aperte virgolette, vergognoso, chiusi virgolette. Quindi non c'è nemmeno il verbo, sei vergognoso. Sì. Quindi la parola è una e una sola. Quella, su quella parola, francamente, è chiaro che quando un arbitro sente è diverso rispetto a una cosa detta magari quando uno va via, no avvocato? Sono due cose un po' diverse e non si dovrebbe dire vergognoso a un arbitro, però francamente non è una cosa grave. E sulle mani, so che voi puntate molto su questa cosa dell'avvicinamento dell'arbitro, no? Sì, diciamo, molto. È il secondo profilo per cui puntiamo ad ottenere la riduzione, cioè non c'è stato un atteggiamento irriguardoso, come lo definisce Tosel, conseguente al fatto che Higuain appone le mani sul petto di Irrati. Sì, questo si può naturalmente obiettare, mettere le mani comunque addosso a un arbitro non è bello, non credo che su questo fronte avrete molta fortuna, ma non è che ve lo sto augurando di non avere fortuna, cioè è un'altra cosa. E sulla questione invece degli atteggiamenti successivi di Higuain, credo che ecco su questo cioè, tu ti riferisci all'uscita dal campo. Sì, all'uscita dal campo, oggettivamente. Ecco, però teniamo presente e sgomberiamo il campo da equivoci che le quattro giornate complessivamente inflitte ai Higuain, sì, 20.000 euro di ammenda non tengono conto, comunque non si fondano sul post, ma si chiude la refertazione di Irrati a quando al momento in cui Higuain se la prende con Felipe, ma sì, tutto quello che è accaduto dopo e che le telecamere hanno ripreso non è stato oggetto di valutazione e soprattutto non costituisce motivo di irrogazione di quella sanzione. Quindi noi, siccome dobbiamo reclamare verso quel provvedimento e dobbiamo prendere posizione sugli addebiti, gli addebiti si fermano all'atteggiamento aggressivo nei confronti di Felipe. Sì, che comunque c'è. Che comunque c'è, sì. Una cosa che magari tutti i laureati in giurisprudenza contesteranno, però insomma, a me da sportivo, soprattutto in un'epoca nella quale abbiamo le immagini, vediamo tutto, questa discrezionalità, cioè il fatto che poi se l'arbitro avesse parlato anche di quello che succede subito dopo, quando Higuain viene trattenuto assento dai suoi compagni di squadra che fanno un grande lavoro e riescono a bloccarlo in qualche modo, se ci fosse stata questa menzione sarebbe completamente cambiato. Cioè il fatto che giustamente l'avvocato fa il suo lavoro e quindi deve guardare questi cavilli, questo mi sembra una cosa così antistorica rispetto alla mediaticità del gioco del calcio di oggi, alla quantità di telecamere che abbiamo, e devo dire anche alla disparità di trattamento che c'è tra un caso e l'altro, perché lo sappiamo, gli stessi arbitri a delle volte fanno finta di non ascoltare, altre volte fanno dei provvedimenti molto severi, altre volte sì, ma guarda che Pierluigi, alla fine il punto è proprio questo, no? Io credo che alla fine giriamoci intorno finché vogliamo, ma il punto è proprio questo, della equidistanza di trattamento, dell'equanimità di trattamento tra sì, un sì, però caso non e c'è un francamente casi simili non è che ce ne sono, dice così eclatanti. Il caso Gervasoni Borca Valero, che secondo me ha premesso che non dovrebbe essere utilizzato come un precedente, perché se no è un caso sbagliato. Cioè erano eccessive 8 giornate, secondo te? No, lì furono 4 giornate. Erano 4 più con ridotte a 3. Ah, 4, 3, sì. Accusò Gervasoni di aver scritto il palto di essere stato spinto, quando lui dice che non, e le immagini sono abbastanza chiare sul fatto che fosse una protesta. No, non c'è stata spinta di Higuain, non c'è stata spinta no, di Higuain. Spinta non c'è stata, nel complesso, se Higuain si fosse fermato all'espulsione, che ovviamente si può discutere anche la seconda munizione, come sappiamo, se ne è discusso. Se si fosse fermato, credo avvocato avrebbe preso una giornata, giusto? Confermo. Una giornata. Allora, io dico, la questione adesso saranno 3, saranno 4, sarà bravo l'avvocato a risolvere la questione. L'unica cosa è non pensare, ma su questo l'avvocato non si può esprimere naturalmente, che ci sia una specie di complotto contro il Napoli per far squalificare Higuain a 4 giornate. Cioè, la sanzione di 4 giornate non è una sanzione folle, è una sanzione che tiene conto del referto dell'arbitro e di alcuni precedenti. Poi se l'avvocato sarà bravo a dire nel dettaglio quella là non è una spinta, ma è semplicemente l'arbitro che va verso di lui e lui che istintivamente mette le mani lì, la parola vergognoso non ha questo peso che può esserci un vaffa, un pezzo di M, eccetera eccetera. Se la reazione contro Felipe è una reazione sì forte, ma comunque poi viene trattenuto e non ci sono atti di violenza, ma solamente un nervosismo, diciamo, gestuale. Non voglio fare l'avvocato, però potrei anche farlo. Allora sarà stato bravo l'avvocato. Ecco, l'unica cosa che secondo me va evitata, questo, come invece purtroppo è successo, è la questione del complotto contro il Napoli. Ma questa è un'altra cosa. La questione del complotto, il fatto di dire che. Cioè, non è che i giudici vogliono colpire il Napoli per metterlo in difficoltà. Questo è il punto. Questo è il punto di cui si discute, ragazzi. Però non facciamo finta di no. Ma non porta da nessuna parte un discorso del genere, scusate, nel senso che nella discussione di un ricorso di questo genere, eventuali, anche ammesso che si siano verificate, ma rifugge da me questo pensiero, disparità di trattamento non entreranno nemmeno nell'aula di giustizia e i giudici della Corte Sportiva di Appello però, saranno... Certo, però avvocato, le voglio fare una domanda molto chiara, siccome lei è l'avvocato in questo caso del Napoli, ma si occupa poi anche di altre squadre, no? Cioè non è che si è occupato solo del Napoli. Secondo lei ci sono disparità di trattamento? Cioè Higuain ha subito una disparità di trattamento rispetto ad altri casi, sì o no? Guardi, non, da dal momento che adesso noi ci dobbiamo concentrare su questo caso e per non alimentare ulteriori polemiche, e anche visto il mio ruolo di legale del Napoli, non si preferisco non rispondere e lascio al giornalismo giustamente questo tipo di ruolo. Però per sgombrare il campo da qualunque equivoco, Higuain non è che ha preso troppo o troppo poco rispetto ad un altro caso o ad altri casi o ad altri trattamenti. Qui l'episodio, la dinamica e la ricostruzione vanno effettuati di volta in volta, momento per momento, e i momenti che hanno determinato una sommatoria di 4 giornate, cioè una giornata per somma di ammonizioni, e quella non si tocca, e le 3, come lei dottor Cruciani ha felicemente e fedelmente ricostruito, per l'atteggiamento oltraggioso della imposizione delle mani, l'atteggiamento ingiurioso, lo definisce così Tosel per aver detto vergognoso, l'atteggiamento aggressivo nei confronti di Felipe, secondo noi portano ad una sommatoria di 3 giornate che sono assolutamente eccessive. Poi saranno 2 o saranno 1, noi ci limitiamo a questo. Un'altra cosa però diretta, avvocato, ed è questa: esiste, questo me lo può dire come sportivo, ed è la cosa di cui si discute a Napoli, giustamente Genta lo faceva notare, c'è o no un complotto secondo lei da sportivo nei confronti del Napoli? No, questo è importante, un complotto diciamo dei poteri federali o di chi non vuole il Napoli, cioè, esiste o no sto complotto? Io da garante delle regole, da rispettoso delle leggi e siccome credo in questo sport e anche nella corretta applicazione delle regole e delle sanzioni, non credo. Cioè non crede che ci sia un complotto contro il Napoli? Grazie avvocato. Nel percepito, no, posso chiedere, nel percepito del suo cliente, è così. Il Napoli si sente danneggiato da questo punto di vista? Sente che c'è un fumo di persecuzione nei propri confronti rispetto all'altra squadra? Non rispondo a questa domanda perché il rapporto tra me e il mio cliente è un rapporto sacro ed inviolabile, quindi all'esterno non deve e non può trapelare nulla. Chiedo scusa se ho infranto. No, ma è così, ha detto una cosa importante però l'avvocato, che non c'è nessun complotto contro Napoli, cioè non c'è nessun, che è il percepito di Napoli. Tra l'altro, tra i tweet che ci arrivano, Carlo, che ti arrivano in particolare a questa trasmissione, cioè inizia adesso la campagna di tutti i convocati per ridurre la squalifica Higuain. Il che non è. Non c'è nessuna campagna, lo puoi dire tu che sei conduttore di questa. Ma non c'è niente di vero, semplicemente stiamo parlando di capire stanno le cose, anche dal punto di vista tecnico. Quindi. A noi non ce ne frega niente, se Higuain. Questo però, aspetta, fammi fare una sottolineatura da questo punto di vista, perché in Italia la vivo ogni settimana quando ci sono carta da Modiola, quando è allegria, che problema c'è? Cioè, le opinioni. Se vengono rappresentate non appartengono al gestore del programma. Se poi noi ascoltassimo tutti i giorni in radio come in televisione solo persone che la pensano nella stessa maniera, allora ci potrebbe essere un discorso di questo tipo. No. Ma se Auriemma dice una cosa e Mughini dice l'esatto contrario, tanto per fare due nomi. Sì. Adesso ascoltiamo l'avvocato di Sanzione del Napoli, magari domani o prima ascolteremo Giuliani. Noi stiamo semplicemente rappresentando le opinioni, ognuno è responsabile di quello che dice, cercando di garantire nel miglior modo possibile la pluralità delle stesse, quindi non c'è nessuna campagna per far ridurre la squalifica. Posso fare un pronostico? Sì. Per me tre. Ma è anche il mio pronostico, semplicemente perché penso che alla fine un po' il Napoli verrà accontentato sulla questione di Napoli, di Roma-Napoli. Se ci fosse un'altra partita non lo so, c'è anche questo elemento. Avvocato, non ci può nascondere che qualche volta la politica c'entra in queste decisioni, sì o no? No, io guardi. Lei non pensa? Sono anni che frequento le aule di giustizia, conosco bene i giudici e diciamo la giustizia orologeria o centellinata in base al calendario è una situazione che nelle aule di giustizia sportiva non entra. A volte addirittura, non dico che i giudici non conoscono gli avversari delle società i cui giocatori vengono squalificati nei turni successivi, ma diciamo proprio non è dato assolutamente irrilevante. Vabbè. Questo è importante, questo è importante, e lo rimaniamo. Secondo me che non conoscano il calendario non è vero, che ovviamente che non entri la politica o la valutazione. L'avvocato non entra la politica nell'area di giustizia. Grazie avvocato. Grazie avvocato. Senti Pierluigi, io volevo approfittare ancora un attimo della presenza di Cruciani per questo. Si è parlato, poi Grassani ha detto su questo non rispondo. È chiaro che è in discussione il ruolo di Tosella. Sì. Tu hai vissuto, hai costruito buona parte della fama della Zanzara sugli scherzi telefonici. Allora, è stato un bellissimo scherzo, architettato molto bene. Complimenti ai colleghi della Radiazza di Radio Marte, se non sbaglio, e a Simioli in particolare. E detto questo, credo che Tosel debba spiegare. Allora, secondo me, un giudice non dovrebbe parlare con nessuno, tantomeno con i giornalisti, al limite con i suoi colleghi. Dunque, questo è un però punto. Lui dice per prassi, io lo faccio rispondere. Allora, a tutti. Ragazzi, qui è da decidere. Se per prassi andava bene adesso prendersela con Tosel, perché tecnicamente spiega ad alcuni giornalisti, in parte anticipando la sentenza, una cosa è ridicolo. Cioè, se avveniva sempre, non è che adesso, perché il caso è più eclatante, può cambiare la considerazione nei confronti di Tosel. Secondo me l'associazione degli arbitri, non so chi, la federazione, deve mettere un punto fermo. Cioè, il signor Tosello, chiunque al posto suo, non parla con nessuno fino alla sentenza. Dopo può spiegare tecnicamente, eccetera. È come se un arbitro prima della partita dicesse: no, io interpreterò il fatto in un certo modo piuttosto che in un altro. Mi sembra una follia. Cioè, Tosel, questa prassi per cui parla con i giornalisti prima della sentenza, mi pare uno sbaglio. Cioè, Tosel dovrebbe avere il telefono spento, chiuso, fino al giorno della sentenza, al momento della sentenza. Su questo sono d'accordo, vale per lui come per ogni giudice che... Sì, è come se tu poco prima della sentenza, una sentenza importante, che ne so, di Cassazione su Berlusconi, un giornalista chiama il giudice della Cassazione e dice... Benissimo che il processo è nullo. Sì, ma per legge, lui non è che dice, anticipa la sentenza, tecnicamente spiega quello che a tutti era chiaro, perché anche durante Tiki Taka abbiamo parlato di quattro giornate come se fosse una cosa certa. Cioè, perché lo stesso Cesare diceva uno però più tre... Perché era già emerso questo no, anche se non era anche se non fosse emerso, no, perché che Irrati non aveva calcato la mano, perché come spiega poi Tosel in maniera chiarissima, le immagini televisive, qui è l'ennesimo cortocircuito. Cioè, noi siamo di fronte a una vicenda che viene documentata, non solo questa ma tutte le altre, con 100 telecamere, con tutti vedono tutto, però chiaramente poi Tosel decide sulla base della dichiarazione in lingua italiana dell'arbitro della partita. Certo, lui dice decidere... chiaramente io non decido sulla base però della televisione. Però quello è fondamentale, cioè, se uno ti mette le mani addosso, sei tu che sei protagonista a dire me l'ha messa addosso spingendomi forte o semplicemente perché si voleva appoggiare. Quello è normale che ci sia l'interpretazione dell'arbitro. Cioè, le telecamere possono arrivare ma fino a un certo punto. Assolutamente. Fermo restando che i fotogrammi, la scomposizione in fotogrammi è quanto di più fuorviante ci possa essere. Grazie Giuseppe. Ciao ragazzi. Pardo, sentiamo la borsa, sta lì. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... Si ricomincia! Tutti convocati. Gabi, quindi Koke col tocco verticale per Torres, 1-0 Atletico, colpisce lui, 11° gol in carriera contro il Barça, 10° con la maglia dell'Atletico Madrid. Dani Alves, cross morbido, secondo palo per Jordi Alba e poi Suarez trova l'1-1, la carambola su Suarez per il pareggio del Barcellona, è il gol numero 44 della sua stagione, il 108 per il tridente magico. Dani Alves, Busquets, in qualche modo verso Messi, verticalmente Suarez, carambola, cross in mezzo a cercare Suarez, 2-1 Barça, la cambia lui, gol numero 45 in stagione, Suarez, il centravanti. Escono tutte le cose come tu vuoi. Il primo tempo siamo stati un po' imprecisi, ma nel secondo tempo, pur essere un giocatore in più, abbiamo fatto molto meglio, è stato molto meglio in posizione, abbiamo fatto un possesso palla interessante, abbiamo fatto tantissime palle gol. Sono soddisfatto. Credo che al di là di questo fatto, che sicuramente è stato determinante nel gioco più che altro, abbiamo fatto fino a quel momento una partita impressionante, no? Un contrapiedi buonissimo, con molto gioco fra le linee, chiudendo molto bene dove loro non potevano far male, al di là di che stavamo molto basso a nostra area. Questa è la cronaca della partita, racconto dei gol di Pardo, nelle parole degli allenatori nel dopogara, ma il senso è un altro, ve lo faccio sentire subito. Felipe Luis, a proposito del Barcellona. Però sì che il Barcellona sì che è sproteggito. Il Barcellona, quando juegas contro ellos, se nota molto che tiene mucha fuerza, che tutte le azioni se nos penalizza al massimo, con massimo rigor. E bueno, è duro, duele molto y se nota el temblor de que puedas eliminar al Barcelona, obviamente, ¿no? Pero hace mucho daño a la UEFA eso, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas, estamos vivos. Insomma, queste le parole del giocatore dell'Atletico Madrid, Pierluigi. Mi sembra, come ti ho detto, mi sembra un film già sentito. Sì, ma sicuramente, insomma, è chiaro che la partita è stata particolarmente polemico e E però insomma alla fine io credo che la partita di ieri sia girata soprattutto perché il Nino Torres ha fatto una cosa che non doveva fare. Certo. Anche nella partita di ieri, come nella partita che mi capita spesso di commentare adesso, ci sono delle situazioni che sfuggono al controllo dell'arbitro, ci sono degli errori, però anche ieri ho visto errori da una parte e dall'altra, francamente ho visto un mancato giallo a Busquets, poi ho visto un mancato rosso a Lucas Hernandez invece dell'Atletico Madrid, e poi c'è Suarez che è sempre al limite, che poteva essere punito certamente in maniera molto più forte. Ragazzi, c'è una sproporzione evidente tra quello che vediamo noi e quello che vedono gli arbitri. C'è poco da fare, c'è poco da discutere. Le partite sono piene di errori, e se noi applichiamo la nostra conoscenza, le nostre immagini alle partite, quasi sempre vengono fuori casini, perché è indiscutibile. Però secondo me ci sono partite e partite, situazioni e situazioni, nel senso che ci sono delle partite che realmente gli arbitri finiscono, ci mancherebbe altro, involontariamente, altrimenti ce l'abbiamo tutti a casa, per condizionare, e ci sono altre che invece secondo me non vengono condizionate dall'arbitro pur degli errori. E in questo secondo me le due partite dalle quali si è discusso tanto in queste due settimane sono molto diverse, perché in Toro-Juve certamente a un certo punto la partita può girare e ci sono degli episodi, anche se poi l'arbitro sbaglia da tutte e due le parti, però è una partita che può girare. Udinese-Napoli, altra partita che ho commentato, una partita dove il Napoli perde perché ha meritato peggio, di perdere, perché gioca peggio, poi cioè, il senso è quello, bisogna poi quindi possiamo parlare di disegni, di complotti, di arbitri, di Higuain, di errati, di quello che vuoi. Allora, il punto è, oggettivamente, perché ripeto, usando le stesse parole di Luciano, non è che ci frega. Il Napoli a Udine non ha perso per colpa di errati, ha perso perché ha approcciato male quella partita, perché è stanco, perché l'Udinese ha giocato bene, ha giocato meglio, per tutta questa serie di ragioni. E poi a noi, questa è la ciccia, poi resta il fumo, no? No, certo, poi secondo me l'espulsione di Higuain è un'espulsione, secondo giallo di Higuain non c'è, però c'era il secondo giallo di Koulibaly che era nettissimo, così come c'era il secondo giallo di Bonucci la settimana prima. Quindi io poi penso soprattutto che siccome poi alla fine c'è poco da fare, quando gli allenatori o comunque gli addetti ai lavori cominciano a tirare fuori degli alibi, poi alla fine non aiuta mai. Bravissimo. Un conto è farsi sentire, diciamo, perché tutto oggi è PR. Tutto oggi è lobby, per cui ci sta benissimo che se il Napoli si sente danneggiato faccia tutto quello che può fare, ovviamente nei termini leciti, per fare PR, per fare lobby, perché la lobby sappiamo che non è per forza una loggia massonica, è una normale attività che tutte le società di tutti i settori del mondo svolgono e si basano sui rapporti, si basano sul fatto, quando c'è qualche torto, di protestare, quando le cose vanno bene di applaudire, eccetera. È diverso è secondo me la reazione, e la cosa che mi fa più paura in chiave Napoli è proprio l'idea che questa sconfitta, che sarà certamente uno shock, possa gettare un'ombra sulla stagione che assolutamente sarà, assolutamente sarebbe un peccato se per questo quello che sta succedendo ora il Napoli perdesse un secondo posto che ha strameritato. Cioè, tra secondo e terzo posto c'è tutta la differenza del mondo, questo è chiaro. Franco, buongiorno, poi salutiamo anche Luigi Pardo, dica. Buongiorno. Guardi, io ho 71 anni, sono un ex tifoso del Milan e diventai tifoso del Milan quando il signor Cesare Dicken, purtroppo, se n'è andato, alzò la Coppa. Adesso seguo il calcio un po', ecco, le squadre mi giocano bene. Volevo fare solo questa osservazione. Quando qualche partita fa Dzeko si rivolse, probabilmente solo con una parola, non con tante scene come ha fatto Higuain, ha preso 3 giornate... Allora anche quelle erano sproporzionate, ritengo. Sì, ma è vero, ma guardi, c'è un'assoluta discrezionalità da un arbitro all'altro. Salah è stato cacciato. Anche questo è da sottolineare, secondo me. Ma questo è il problema, perché l'abbiamo visto tutti Zaza la settimana scorsa, così come avevamo visto tutti Totti con Rizzoli nel famoso triplo vaffa di qualche anno fa. Io non credo sia un discorso nei confronti di una squadra piuttosto che di un'altra, è un discorso di stile di arbitraggio, e questo però è un problema, perché da un lato può piacere un tipo di approccio un pochino più morbido, dall'altro però se questo approccio morbido lo fa soltanto qualche arbitro in qualche determinata situazione, si fa fatica a capire qual è il giusto e qual è lo sbagliato, avere un metro univoco, e questo è molto e questo è il problema. Questo è il problema. È evidente che la reazione che ha avuto Higuain Salvo poi fidarsi su quello che l'arbitro scrive e che è quello che fa testo ed è quello su cui il giudice sportivo valuta. Non valuta guardando la televisione, come ha detto Tosello. Appunto, ma valuta addirittura sul, anche se vuoi, sullo stile di scrittura dell'arbitro, cioè addirittura paradossalmente, no? Cioè mettere o non mettere qualcosa, usare un aggettivo piuttosto che un altro, poi diventa un argomento del quale si discute. A me, ti dico, dispiace, cioè secondo me è ovvio che Higuain, la perdita di Higuain è qualcosa che dispiace, no? A tutti gli appassionati di calcio. Ma sicuro, ma stai scherzando, ma io sono con Mughini tutta la vita, ma mettiamolo in campo le ultime sette partite, ma rendiamo appassionante fino in fondo questa sfida. Fatemi vedere qualche altro gol di Higuain. A me dispiace da morire di tutta questa sceneggiata, però non possiamo nemmeno far finta che a Udine nulla sia successo. Pier, ci sentiamo domani. Ci sentiamo domani e venerdì. Anzi, adesso vi do un appuntamento importante, dopo il traffico. Dai, appuntamento importante dopo il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Siete dati appuntamento a San Siro per il 28 maggio, Pep? Io lo firmo adesso. La revancia, eh? Prima dobbiamo vincere un quarto di finale contro il Atletico de Madrid. E sarà difficile, c'è tantissima igualtà e vedremo. Beh, la cosa più probabile è che quell'appuntamento si consumi nella notte del tardo maggio milanese tra Luis Enrique e Pep Guardiola. Per ora è solo un siparietto. Gennaro, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie di avermi convocato. A lei. Mi volevo presentare, tra virgolette, io sono quello che qualche anno, un paio d'anni fa, ha vinto il premio da voi perché avevo goduto all'esclusione della Juventus dal Benfica, come quando Sanna aveva goduto col Cagliari. Quindi sì, non insomma, immaginare, esercizio di gufismo, non puoi immaginare che per noi è lecito. Come ho goduto nella serata di Monaco. Detto questo, riguardo a Higuain, volevo dire che a me non interessa il fatto dell'espulsione in sé e della sua reazione. Io andrei alla sua prima ammonizione. Avete mai notato che sempre Lichtsteiner sbatte il pallone a terra rivolgendosi all'arbitro ogni volta che gli viene chiamato qualcosa contro? Mai ammonito. Io non credo che questa sia uniformità di giudizio. E in ultimo, se mi consente, vorrei dire una cosa. Le consento, confesso, di farò più attenzione agli atteggiamenti di Lichtsteiner dopo un fischio dell'arbitro, confesso. Lei li ha notati, giusto? No. Io non me li ricordo. L'ultimo è nel derby, sbattendo il pallone ripetutamente a terra dopo un fallo laterale contro. In ultimo volevo dirle, io sono tifosissimo del Napoli e mi piacerebbe che il presidente del Napoli entrasse nella storia cogliendo questa occasione, ordinando a Sarri domenica di schierare tutte, e dico tutte, le seconde linee della squadra del Napoli. Farebbe una cosa terrificante e autolesionista. Farebbe una cosa terrificante, perché abbiamo già detto molte volte che questo secondo posto del Napoli, che è meritatissimo, va difeso con tutte le forze, le energie ed eventualmente le battaglie giuridiche del caso, perché io credo, ma l'ho detto ieri e lo ripeto tutte le volte che posso, che questo tipo di vittimismo possa solo fare del male alla crescita di una grande squadra come il Napoli. E mi riferisco anche a Sarri, ai suoi alibi, ai suoi tanti commenti sugli orari e sui viaggi intercontinentali e sulla mancanza di contemporaneità delle partite. Tutte queste lamentele, questo circo di lamentele che crea degli alibi ai giocatori, che crea degli alibi anche allo stesso Sarri o alla società, credo che siano di ostacolo all'ulteriore e futuro sviluppo di una grande squadra come il Napoli. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. No, diciamo, me ne parlavo prima con Pardo, bell'aria anche a Barcellona, eh. Grande potenza, a Madrid forse, più che a Barcellona, visto che le polemiche vengono tutte qui dal Calderon e zone limitrofe. Si sono stemperate oppure no? Ma beh, sì, nella notte a caldo erano così, anzi che poi Simeone si è abbastanza contenuto, però tra Torres, Filipe Luis, e che noi ci lamentiamo dei nostri arbitri, però questo brick non è, ieri non è stata all'altezza. No, ma questo era... ma anche... non so se la gente l'ha ricordato, questo è diede un gol al Bayer Leverkusen mitico di Kiesling, un colpo di testa che finisce fuori, poi la palla per un buco della rete entra in porta. Uh-huh. C'è un'immagine bellissima di Kiesling che si dispera per l'occasione sprecata e l'arbitro che gli dà il gol. Sì. Questo è Brick. Poi anche da noi oggi si scrive, come ad esempio sul sito della Gazzetta, non so se l'hai scritto tu questo, cioè, è un Barcellona da record 30 volte in 11 contro 10. Sì, no, credo perché stavo volando, però sì, sì, era una delle... Sì, sì, è una... Si fanno i conti anche sull'europotenza del Barcellona, ma d'altra parte non erano stati un granché nemmeno i due arbitri che hanno diretto la Juventus col Bayern, se vogliamo. No, esatto, e poi comunque quest'anno il Barcellona c'ha anche il record in Liga di rigori dati. Però c'è anche da dire una cosa, il tipo, la maniera di giocare del Barcellona porta anche a queste situazioni, perché se tu stai 80 minuti nell'area avversaria, magari il rigore te lo fanno. Se tu giochi, cioè io penso sempre a uno come Neymar, ogni volta che prende palla prova il dribbling, no? Si può riuscire o no, una volta lo ferma, una volta no. Però poi possiamo discutere sulla sua attitudine a svenire, ma comunque. Vabbè, quello è un altro discorso, quando lo colpiscono, però a volte, spesso lo colpiscono. Comunque se tu giochi in maniera tanto offensiva e l'Atletico in maniera tanto difensiva, sempre al limite, può anche succedere che il calcio lo dai e che... Cioè, il discorso di ieri è molto semplice. Per me l'espulsione di Torres è corretta e tutto va bene. Il problema è che andava espulso anche Suarez. Cioè, tutto qua. Alla fine l'errore è quello. O c'è quel cartellino a Busquets non dato pochi minuti dopo il fallo simile di Fernando Torres. Sì, si può discutere su diverse cose. Posso dire che il peccato originale l'ha fatto El Niño? L'ha fatto sì, esatto, è questo. Ma infatti peccato il Niño è quello. In zona mista, il Niño è arrivato distrutto e non distrutto dall'arbitro, perché lo sapeva. Il Niño c'ha una certa esperienza, non è l'ultimo cretino. Lui lo sa benissimo di aver sbagliato, e soprattutto con certe televisioni, cioè lui ha messo chiaramente, c'aveva una faccia, ha sbagliato lui e basta. Voglio dire, poi dopo tutto il resto di conseguenza, anche perché poi c'è una cosa da dire, cioè io quando ho visto che da sabato il Ciolo dice il Niño titolare, io veramente dico, chissà cosa vede il Ciolo. Sinceramente lo faccio autocritica, io per quello che è stato Torres quest'anno si è preso una pausa di 19 partite tra un gol e l'altro, per dire. Sì. No, ma se ne è preso tante negli ultimi anni. Esatto, no? E invece lui col Barça effettivamente c'ha qualcosa e ieri era la partita della vita. Cioè il miglior Torres, non so, da tantissimo tempo, da sei anni, miglior Torres da sei anni. Forse a un certo punto si è visto talmente bene che non ci ha creduto più neanche lui. E ha fatto una stronzata. L'ultima cosa, ma la partita del Calderon come la immagini? Immagini durissima, meglio. Durissima. Difficoltà per il Barça? Sì, difficoltà per il Barça, sicuramente. Perché io penso, vedo un Atletico difendere la sconfitta, cioè difendere lo 0-0 a oltranza. Sì. E poi provare magari nella seconda parte a fare qualcosa, però io vedo secondo me difendere la sconfitta con difendere un 1-2 con il Barcellona è estremamente difficile, perché sì, questo è un gol, ci stavano riuscendo, erano lì ieri, ce la potevano fare, e io li vedo, cioè entreranno in campo pensando che lo 0-0 fino a un certo punto va bene, e poi proveranno a fare il loro golletto, magari no, una posizione, un calcio d'angolo, no, una situazione così. E sarà dura per il Barça, è chiaro che resta favorito, perché comunque poi il Barça il gol te lo può fare sempre, e vediamo chi l'arbitrerà, no? Anche sì. Magari mandano un italiano, sarebbe divertente. Grazie Filippo, abbraccio. Ciao Filippo Mariaricci. Allora adesso sì, vi do un appuntamento venerdì. Ovviamente tutti convocati alle 14 alle 15:30 come ogni giorno, ma raddoppiamo e raddoppiamo live. Io vi invito tutti a Milano, dintorni, terre vicine e lontane, a presentarvi all'International Radio City, è un evento importantissimo, è l'Expo delle principali radio italiane. Ebbene, dalle 18:30 alle 20 sul palco, il sottoscritto, Pierluigi Pardo, un sacco di ospiti di persona e non soltanto di voce, che avete imparato a conoscere durante i nostri programmi, e insomma un'ora e mezza di live show. Vi piace così? Vi aspetto venerdì, International Radio City, Piazza Gaia Olenti di Milano, 18:30-20. Tutti convocati lì, di persona, vi aspetto. Tanto vi aspetto dopo il GR per un'altra mezz'ora. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo! Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Tutti convocati. So che è Gae Aulenti, nome della piazza, del luogo, non Gaia Aulenti. Se qualcuno ha capito male mi scuso, ma io ho detto Gae Aulenti, da dove questo nome lo conosco. Dunque è il luogo in cui ci troveremo tutti insieme venerdì alle 18:30, dalle 18:30 alle 20, per un appuntamento speciale live con tutti i convocati. Quindi siete tutti convocati per l'appunto lì, di persona, a Milano, all'International Radio City, e ci farete un gran piacere. Qui presente sarà Pierluigi Pardo, saranno molti altri ospiti su quel palcoscenico che conoscete bene, e se per caso avete voglia di salire su quel palco pure voi, a me fa solo piacere. Michele Bari, buongiorno. Oh, buongiorno Genta, tralascio i complimenti di rito perché voglio essere molto breve. Io ho risposto a un vostro tweet su Grassani, che commentava che riportava quanto ha detto Grassani. Allora, o Grassani o l'arbitro Irratti, uno dei due mente, perché nel tweet, potete poi guardarlo dopo, c'è un video chiarissimo dove si vede Higuain che dice due volte all'arbitro sei un bastardo. Sì. Quindi chi dei due mente non lo so, decidetelo voi, e per il resto siete grandi e vi ritengo, a differenza di quello che dicono altri, davvero una trasmissione imparziale. Allora, chiariamo. Irratti ha scritto nel referto un'altra cosa, che poi si sia preso del bastardo, di abbia preso altre parolacce e le abbia dimenticate o domesse, questo non lo so, però quello che sta scritto nel referto, e io mi fido ciecamente di quanto dice l'avvocato Grassani, perché è troppo esperto e professionale professionista per dire una sciocchezza di questo tipo. Ebbene, che conta è anche agli occhi del giudice Tosel è ciò che l'arbitro ha scritto. Poi, in secondo grado, come abbiamo sentito, potrà comparire Higuain, potrà essere chiamato a comparire e a testimoniare Irrati, e poi vediamo cosa succede. Claudio, buongiorno. Sì, buon pomeriggio Carlo e complimenti di nuovo. Grazie. Niente, io sarò brevissimo. Ma cosa c'entra la Juventus, no? O di Steiner che batte la palla per terra, con la sconfitta tra l'altro meritatissima del Napoli a Udine? E, cioè, non riesco a capire questo vittimismo, questo cercare alibi. Cioè, la Juventus ha fatto una rimonta eccezionale quest'anno in campionato. Sì. Penso che lei condivida con me che ha meritato nettamente di ma ragazzi, ma di cosa stiamo... Allora Claudio, io dico due cose. Finisco, poi la lascio. Tra l'altro non è ancora finito il campionato, perché la Juventus ha perso uno scudetto nel 2000 a Perugia. Sì, sappiamo bene la storia, la conosciamo, però io dico due cose. La prima è che il Napoli ha giocato una stagione meravigliosa, senza se e senza ma, ha espresso il miglior gioco d'Italia, eccetera. Ha avuto un avversario straordinario come la Juventus, perché vincere 20 partite su 21, 20 più un pareggio in 21 partite, possiamo aggiungere il record di imbattibilità che Buffon ha conquistato, possiamo aggiungere molti altri corollari, insomma è stata una sfida ed è tuttora una sfida tra due enormi squadre, almeno nel piccolo orto del nostro campionato. E anch'io sono dell'idea che per il bene della crescita del Napoli sia bene non eccedere con i piagnistei, non eccedere con il vittimismo, non eccedere con il complottismo e con tutte queste altre cose, perché c'è una cosa che spero la si sia twittata, ma che comunque conserveremo in archivio, è la dichiarazione di Grassani, in questo caso difende il Napoli, che dice Io ai complotti e ai disegni non ci credo assolutamente, e la politica non entra nelle aule della giustizia, quantomeno quella sportiva. Ciao Leo Turrini. Buongiorno maestro. Quante giornate di squalifica mi dai? No, nessuna, perché ti dovrei squalificare? Cosa è successo? No, nulla, è solo perché non ci sentiamo da un po', quindi temevo che tu avessi scritto nel referto. No. Temevo che tu avessi scritto nel referto arbitrale sottoposto al giudice Tosel. No, avrai senz'altro trovato interlocutori più degni della tua attenzione. Io vorrei dare subito una notizia del traffico. Sì. Sulla Pero Cormano, attenzione, c'è una multipla in fiamme. È quella che usa Seb Vettel per i suoi spostamenti, che ha preso esempio, è vero, dalla SF16H, dove H sta per hai visto mai, e anche la multipla del tedesco si è guastata. Però nonostante tutto il pessimismo, il catastrofismo che ha accompagnato gli eventi del deserto del Bahrain, io ti stupirò, maestro Genta, ma rimango molto fiducioso sulle prospettive di questa rossa. Beh, ma sai, io leggo interviste su due pagine di Corriere della Sera del tuo amico Arriva Bene, che spende ottimismo come non è abituatissimo a fare. Questo è accaduto nei giorni scorsi. La sensazione che ho avuto seguendo i primi Gran Premi della stagione, allora è fuori discussione che la Mercedes pronti via ha fatto due pole position e due vittorie, però la Ferrari, al netto di questi, chiamiamoli, spero, difetti di gioventù, va molto forte. In Australia l'avevamo già detto, se non ci fosse stato l'incidente di Alonso, con tutta probabilità Vettel avrebbe vinto. E anche domenica, lasciamelo dire, il santo bevitore alias Kimi Raikkonen ha fatto la miglior gara da quando è tornato in rosso. Concorderai tu che sei un garone da paura, insomma, una cosa che secondo me persino Pardo, che non ama la Formula 1, avrà riconosciuto come meritevole di ogni elogio. Tra l'altro, caro gente, c'è una curiosità sulla quale io ti vorrei, come dire, coinvolgere. Prego. Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché, se il nostro amico Valentino Rossi, sì, eroico, bravissimo a restare in piedi mentre gli altri cadono, sì, si classifica secondo, sì, e senza la sfagiolata delle due Ducati all'ultima curva era arrivato quarto. Cosa ne pensi di quella sfagiolata? Dopo me lo dici. Dopo te lo dico. Tutti a dire, oh, grandissimo, bravo, pioggia di complimenti. Arriva seconda la Ferrari nel deserto, dietro una Mercedes che è molto più dominante della Honda di Marquez, se guardiamo i risultati delle ultime stagioni, e tutti a dire che flop, che fiasco, c'è Vettel fermo sulla Pero Cormano, non sanno nemmeno più fare una macchina in grado, non di concludere di la partire, gara, di partire. Sì. Insomma, secondo me c'è un doppio pesismo, come dite voi. Però capisci, Leo, che dopo tanta astinenza ti cascano le braccia quando vedi il fumo, sì, vabbè, che esce al giorno della cognizione. No, ma io poi per carità hai ragione, scusi, tu. Maestro Gente, qui dalla Pero Cormano, che io sto confortando Seb Vettel con la multipla in fiamme, ma pensi a quelli della mia generazione che già a suo tempo aspettammo 21 anni, dal 79 al 2000. Qui siamo solo al nono, ragazzi, è una lunga marcia, lunghissima. Quindi quando si affrontano queste traversate del deserto non bisogna lasciarsi prendere dal panico. Io credo nella validità di questo progetto della SF16H che sta per hai visto mai, no? E posso anche cullarmi nella speranza che la Mercedes sia partita come l'Inter di Mancini. Visto che tu parlavi prima di rimonto, il problema è capire quanto margine ha la Mercedes, che comunque due corse, due vittorie, e poi soprattutto Hamilton quando gli torna la voglia di mi sembra totalmente cosa, in altre faccende affaccendato in questo momento il Moro. Rosberg e Hamilton sono molto più competitivi di Ljaic e Jovetic. Mettiamo l'aggio così, perché sono due signori piloti. Poi per quanto riguarda il nero, effettivamente io te l'avevo profetizzato, no? Da quando si gode l'Insa Yvonne è entrato nella spirale Tiger Woods. tu dici? Ma che caso, insomma, già no, lei, mi sembra svagato, distratto, ma vedo anche foto partenze, oggi. Fa queste partenze dove sembra aver usato il narghilè proprio lì. Bravo. All'interno dell'abitacolo, sì. Perché era addormentato al via, ma era successo anche in Australia, dove non sono abituati a consumare. Mi sembra svagato. Hai visto la scena della domenica mattina? Come no? Quando è arrivato al circuito vestito come uno sceicco, con il caffettano tutto bianco. Allora io ti dico, ma la prossima gara in Cina cosa ci va? Vestito da mandarino Fu Manchu? Non lo so io. Ormai, da quando frequenta la Von, questo giovanotto ci sta abituando a tutto. Insomma, comunque, tornando alla Ferrari, bisogna avere pazienza, non farsi, ripeto, condizionare dagli eventi. C'è, senza dubbio, una questione che riguarda proprio la, volgarmente parlando, la tenuta, la consistenza della macchina, che è un progetto rivoluzionario. Io rimango del parere che da un punto di vista qualitativo si siano avvicinati molto. Con un pizzico di fortuna in più avremmo avuto risultati diversi. Poi mi rendo conto, hai detto tu bene prima, la Ferrari non vince il mondiale da 9 anni, Vettel non riesce a partire, ha la multipla in fiamme sulla Piero Cormano. Che cosa vogliamo fare? Facciamo come la Ducati, allora, cosa ti devo dire? Iannone dovizioso. Sfagionata. Insomma, parliamone. Vabbè, io penso. Poi ne hai viste anche tu in Formula 1, sì, di queste cose qua. Sì, ma questa, sai, è stata resa più spettacolare dal fatto che erano proprio al traguardo, no? Formula 1 è più semplice che accada tra due compagni di squadra, ma la partenza, che magari uno non vuole dare strada all'altro. Proprio a 100 metri dall'arrivo io non me lo ricordo. Credo, ne parlavo domenica con Marco Lucchinelli, che forse influisca veramente sull'atteggiamento di questi giovanotti ducatisti la storia di Lorenzo, che arriva a Borgo, influisce, ma mica li giustifica, no, non li giustifica, ma che influisca io ci posso credere, soprattutto su un tipo emotivo come Iannone, No, anche perché adesso, perché un giorno è Lorenzo, c'è l'ombra di Stoner che è lì che volteggia come un falco e dice questa moto volendo sarebbe mia per il momento. Maestro Genta, che è questo? Se il capo della Ducati Corse fosse Jean Todt quando stava in Ferrari, io ti assicuro che Iannone tornava sicuramente a nuoto dall'Argentina, sì, no? Sì. E Dovizioso tornava nella stiva, perché comunque in queste situazioni, quando si determinano, è difficile escludere un concorso di colpa, non sull'episodio in sé, ma sul clima psicologico all'interno del team, hai capito? Ovviamente è stato un grande dispiacere, perché io poi sono ducatista, figurati, Lo so, però anche il fatto che un giorno si parli di Lorenzo e quello dopo di Stoner, io capisco anche che su gente che è abituata a vivere sulle emotività e sui nervi, e soprattutto Iannone, queste cose possono non fare però, tutto il piacere del maestro, mondo. Lei mi insegna, no? Bisognerebbe, alla maniera del santo bevitore, che ha sempre un aplomb fantastico, frutto della vodka ghiacciata, tenere gelati i propri nervi, no? Controllare le emozioni, perché sennò non sei un professionista, Sì, hai ragione. Le possiamo fare io e te. Hai ragione. Sì, ma poi possiamo tornare indietro di qualche mese, tornare al discorso su Valentino e Marquez, e possiamo andare avanti su questa china per giorni e giorni e giorni. Potremmo fare un'intera trasmissione, maestro. Un'intera trasmissione, uno show. Ti faccio sentire un tuo conterraneo, che è un ascoltatore, Gianni da Modena. Buongiorno. Sì. Buongiorno Genta, buongiorno Pardo, complimenti. Pardo non c'è, adesso sto parlando con Leo Turrini. Allora, buongiorno Genta. Senta, io volevo dirle, noi ci eravamo sentiti anche un paio d'anni fa, sempre riguardanti più o meno le polemiche arbitrali sulla Juve, su queste cose qui. Io sono stato 20 anni in curva a Fiesole con la Fiorentina, quindi insomma, volevo sapere, ma cioè, qual è la novità? Perché a me dispiace che i napoletani si arrabbino, ma cioè, con la Juve sappiamo che è sempre così, quindi non è che... È questo andare questo per, lei dice per assioma, cioè sappiamo già che per in maniera assiomatica. Io voglio dire, senza Graziani nell'82, Puntari, Ronaldo, Turone. Cioè, penso che qual è la novità? Si sa che quando c'è qualcosa che deve andare, è ovvio che è sempre così. Ormai il calcio conosciamo, la Juve, da Mozzi, da Agnelli, da tutto quello che ci può essere. Ma io ho avuto l'impressione che sia stato più il Napoli ad essere andato in cortocircuito sulla via di Udine. Se è andato in cortocircuito, credo che qualche responsabilità ce la possa avere anche chi ha gestito emotivamente questa squadra. più che non la Juventus, che non fa altro che vincere una partita dietro l'altra. Turrini, che dici? Ma sai, io sono interista, quindi su quelli credi che loro no su queste comunque sia dato. Credi no, che la Juventus prima tu ti ho sentito, hai detto una cosa giustissima. Nel campionato italiano quest'anno la Juventus sta facendo una cosa straordinaria, perché se tu parti male e dopodiché infili 20 vittorie su 21, non ho mai voglia di stare a discutere, no? Ma ci sono dei meriti che vanno riconosciuti. Poi dopo sugli episodi specifici, allora io penso questo: se noi immaginiamo 10 anni da calciopoli che ancora ci sia qualche cosa di orchestrato, studiato, tavolino, allora smettiamo di occuparci di pallone e seguitemi nel fumo bianco lasciato dalla multipla di Vettel, sperando che questa Ferrari sia come la Juventus di Max Allegri, che innesti la quarta tra un paio di gran premi e che non l'ha vedato nessuno, che mostri gli scarichi a queste frecce d'argento, a questi tedeschi veramente tremendi, che proprio devo dire sono una cosa, ma però non li si regge più. Ma d'altra parte, le grandi tirannie sono quello che ammazza il desiderio e che ammazza lo sport. Non cominciamo a buttarla subito sul pecoreccio, ammazzare il desiderio. Cioè, voglio dire un'altra roba che poi tante volte... Se tu sai già chi vince, che desiderio vuoi provare? Ma no, ma voglio dire una roba. Dobbiamo renderci conto che i numeri di questa Mercedes nelle ultime due stagioni e mezzo sono ineguagliati nella storia della Formula 1. Persino la Super Ferrari di Schumi, percentualmente, ha vinto meno e fatto meno pole position di questa macchina. E questo per dire che la Ferrari, ovviamente anche a causa dei suoi errori in passato, eccetera, viene a trovare una situazione nella quale deve battere la monoposto più forte di sempre. Sì, sì, io sì. Lo so che uno si sente dire questo e dice: ah, vabbè, ma allora guardiamo una partita arbitrata da Rizzoli. Ma no, insomma, non perdete la speranza. Non da... Io credo che in questi numeri spaventosi della Ferrari, così come della Juventus, ci sia un concorso di colpa di chi non si è attrezzato prima per rendere, raramente si è visto una macchina ragione. con meno avversari di questa. La verità scientifica, se mi passa il termine, è che da quando la Formula 1 è passata all'ibrido, motore elettrico che supporta il turbo, cioè dal 2014, a Maranello hanno scoperto di essere rimasti indietro di anni luce. Adesso stanno rimontando. Ma se uno ha presente quello che capitò nel 2014, la Formula 1 si lancia sull'ibrido come soluzione tecnologica e la Ferrari, che aveva Alonso e Raikkonen, non Turrini e Genta alla guida, prendeva un giro tutte le gare. Quindi è chiaro che sono stati fatti degli errori. Dopodiché arrivare al Marchionne di oggi, che sa di Formula 1 quanto io so di fisica nucleare, e dire alla fine di una stagione 16-3 per la Mercedes 2015, la prima del 2016 li asfaltiamo, questo sembra molto la finanza creativa, hai capito? Bravo. Mi piacerebbe tanto, ma voglio dire, ma poi vediamo quando scriviamo i numerini sul quaderno se la finanza creativa funziona. Ci vuole pazienza, perché non funziona così. La Formula 1 tante volte, è vero, è noiosa, ma in Formula 1 comunque alla fine guardate che vince il migliore, non c'entra mai l'arbitro. Questo bisogna rendersene conto, anche quando capita, come storicamente sta accadendo ora con la multipla di Vettel fermo sulla Piero Formano, di perdere perché si è rimasti indietro, e in questo caso bisogna lavorare, recuperare, mettercela tutta e sperare di non vedere più quel fumetto. Questo fumo, tu sai cos'è stato, no? Sì, lo so. È stato un software della mappatura del motore che ha fatto partire un iniettore, un cumulo di spighe che veramente proprio sembra la maledizione di Montezemolo si è battuta sulla Ferrari di Marchionne. Questo sarebbe il titolo da fare a tutti i convocati, ma si fa per scherzare, si ride. Ciao Leo, grazie. Ti abbraccio forte, Leo Turrini. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo da Pavia. Niente. Intervenivo su Higuain, io sono tifoso juventino, ma questa settimana non ne posso più di sentire queste cose qua, perché come al solito, noi della Juve siamo stati simpatici solo dal 2006 al 2010. Sì, quando non vinceva mai. Vinto. Appena abbiamo ricominciato a vincere, alle tutte avanti. Comunque, niente, secondo me, volevo dire che le giornate sono giuste per quello che ho visto io, secondo me, va bene. Cioè io non lo interpreto come qualcosa di scandaloso, né come tantomeno come un disegno oscuro, tantomeno con logica di palazzo. Mi rifiuto di pensare questo e riascolto mentalmente le parole di Grassani, che è l'avvocato che ora difende il Napoli, che ha escluso queste cose. Poi tutto sta nel capire l'arbitro cosa ha scritto e che cosa accadrà nel ricorso. Io l'ho detto subito, immediatamente, in tempi non sospetti, ieri, quando è stata ufficializzata la sentenza, una sentenza che già conoscevamo. Secondo me quelle giornate diventano tre, Higuain con la Roma è in campo, poi mi sbaglierò. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione, complimenti per la trasmissione. Vorrei farvi un appuntino. Secondo me ogni tanto perdete un po' di obiettività, perché è fuori dubbio, secondo me, che a partire da Ronaldo, da quest'anno, adesso di nuovo un favorino alla Juventus nel derby, poi io che sono milanista, quel gol, un gol di un metro, come facciamo a non dire che sono episodi che veramente... No, poi possiamo contare, no Fabrizio, poi possiamo contare anche le volte che alle nostre rispettive squadre è andata bene, ma è chiaro che se qualcosa succede, cioè di mezzo alla Juventus, il rumore è molto più forte, molto più violento, perché adesso io non ho nessun fascicolo, li ho lasciati tutti a casa, anzi li ho usati per accendere il camino i fascicoli, però qualcuno, vedrete, andrà a cercare anche che cosa è successo a favore del Napoli, cosa è successo a favore o a sfavore dell'Inter o del Milan, eccetera eccetera. Andiamo a chiudere? Paolo D'Alessandria domani, mi spiace, devo sentirlo, vabbè, domani e poi International Radio City venerdì, presenti fisicamente tutti, platea di ospiti clamorosa, dalle 18.30 alle 20, ovviamente dopo Tutti Convocati, che sarà in orario canonico così come domani alle 14. Grazie Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Ciao, arrivederci ragazzi, ciao.